A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Lo Stato scorda i bimbi stranieri, salvati dal mare, affidati alle comunità e lì da mesi dimenticati, senza che nessuno si faccia carico delle spese necessarie per mantenerli. A volte sono poco più che neonati, altre dei ragazzi. A volte fuggono dalla guerra, altre dalla fame. In ogni caso sono minori soli che doveri di responsabilità ci obbligano a curare. Ma dall'inizio del 2013, a quanto ricostruisce un'inchiesta di A Ciascuno il Suo, questo sembra essere un problema solo dei centri che li accolgono, da Agrigento a Genova, e solo dei loro operatori. Dall'inizio di quest'anno, infatti, per il governo, l'emergenza Nord Africa è ufficialmente finita per decreto. E insieme ad essa sono finiti i soldi destinati da Roma, ma non invece i bambini da accudire, diventati una voce di spesa per le casse già vuote dei comuni. Tutto torna allora nelle mani delle singole comunità, che a quanto ascolterete sono sempre più in difficoltà sia in Sicilia che in Liguria, con stipendi non pagati da mesi e un numero crescente di diffide mandate dai loro sindaci perché non accolgano altri bambini. E allora, prima di chiudere o prima di dover dire no ad un minore non accompagnato, le comunità alzano la voce, si aggregano e pensano anche a vie legali, come anticipa Antonio Di Pinto della comunità Giada di Benevento, che si è fatto carico dell'iniziativa. Il problema è iniziato dal 1 gennaio 2013, da quando il governo italiano non ha più trasferito i fondi destinati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Praticamente ha consegnato ai comuni le competenze economiche e sociali. Quindi sono i comuni che dovrebbero dare i soldi alle varie comunità, giusto? C'è un'ordinanza che trasferisce le competenze ai comuni presso i quali insistono le comunità di accoglienza. La stessa Bologna, mi dicevano qualche giorno fa, in serie difficoltà per sostenere questi costi. Ecco, stiamo parlando quindi di tutti i bambini che arrivano nei vari sbarchi italiani, nei confronti dei quali, diciamo, sussiste l'obbligo della cura. Sono o rifugiati richiedenti asilo politico, ma comunque minori non accompagnati che devono essere per legge accolti e tutelati dalle nazioni che hanno sottoscritto il trattato di New York. La risposta dei comuni qual è? I comuni si sono ritrovati sul proprio bilancio comunale in carico i minori. Hanno risposto che loro non hanno la possibilità, nemmeno in minima parte, di coprire questi costi, e talvolta diffidando le cooperative ad accogliere i minori provenienti dal Nord Africa. Quanto costa seguire un ragazzo e quanto appunto vi aspettate dal pubblico? I ragazzi devono essere seguiti così come viene seguito un figlio di famiglia, con l'aggiunta però che stiamo parlando di ragazzi che ci giungono innanzitutto senza nessun vestiario, nessun esame anche medico fatto. Talvolta prendono delle infezioni, come abbiamo avuto esempi di scabbia in comunità. Stiamo parlando di cure che vanno dalle 500-600 euro a persona. Poi devono essere garantiti naturalmente i diritti allo studio, all'integrazione. Di che ordine di grandezza è il credito che hanno nei confronti dello Stato? Solo nell'ambito della nostra piccola realtà di coordinamento stiamo parlando di un debito che va su diverse centinaia di migliaia d'euro. E a questo punto voi che cosa pensate di fare? Noi pretendiamo che il governo riconosca e trasferisca i fondi per la sopravvivenza nostra e dei ragazzi accolti dal 1 gennaio 2013 ai comuni presso i quali insistono le comunità, perché è inimmaginabile che i comuni si possano far carico attraverso i loro bilanci di questi costi. Stiamo cercando di trovare una soluzione congiunta che ci possa tutelare tutti e che possa tutelare soprattutto i ragazzi, perché è inimmaginabile che dei comuni oggi diffidino le cooperative ad accogliere minori. Diffida con decorrenza immediata la cooperativa a non accogliere minori stranieri non accompagnati. 3 pagine inviate ad un lungo indirizzario, dai gestori delle varie case di accoglienza fino ai vertici di questura e prefettura, fino all'ufficio immigrazione del Viminale, su fino al presidente del Consiglio. Con questa ordinanza che ho tra le mani, lo Stato in sostanza dichiara ufficialmente di non essere più nelle condizioni di provvedere ai bambini che arrivano in fuga. La manda un comune della Campania, come uno della Sicilia o della Puglia. La manda un piccolo comune, ma le difficoltà sono anche delle città. Sentivamo di Bologna, ci confermano da Genova, dove la cooperativa Ancora è solo ora ha avuto notizia che l'esecutivo non coprirà le spese di alcuni ospiti che avevano detto invece di voler far rientrare nell'emergenza, come racconta il direttore Fausto Romano. Stiamo accogliendo un numero ragguardevole di minori di varie nazionalità, non ultima quella del Bangladesh, dove stanno arrivando ragazzi quasi settimanalmente. Abbiamo iniziato con l'emergenza in Nord Africa, dove c'erano questi ragazzi egiziani, ragazzi tunisini, per poi passare adesso ad accogliere questi ragazzi che ci dicono che vengono dal sud Italia e quando vengono fermati sul territorio genovese e comunicano di essere privi di riferimenti parentali e quindi poi collocati in comunità per minori. Cioè, quindi qual è la storia di questi ragazzi? Cioè, sono arrivati con gli sbarchi a Lampedusa? Sì. Non solo da Lampedusa, anche dalla Sicilia o comunque... In Calabria, certo, nel sud Italia, quindi con il mare, arrivati via mare. Certo, ecco, ma come mai arrivano in Liguria, a Genova? Un po' perché comunque non trovano altre collocazioni prima e poi comunque perché sono in transito. No, nel senso che i minori non dovrebbero essere poi presi in carico dalla questura, che li dovrebbe affidare alle varie comunità, anche quelle siciliane spesso sono piene. Esattamente, sì. Infatti anche noi in questo momento non possiamo accogliere più nessun altro minore proprio perché la situazione è di esubero da parte della nostra struttura. Allo stesso tempo anche voi avete problemi di tipo economico. Non ultimo abbiamo ricevuto da parte dell'amministrazione comunale una lettera dove ci veniva spiegato giusto la prima settimana di settembre che nonostante un cartaceo abbastanza nutrito tra il Comune di Genova, ANCI e il Ministero della Solidarietà Sociale, inizialmente i minori che noi avevamo accolto da fine 2011 fino a tutto il 2012 inizialmente erano stati riconosciuti dal Ministero e dall'ANCI come emergenza Nord Africa, mentre adesso a settembre, quindi a distanza di un anno e mezzo, comunicano al Comune di Genova che questi minori in realtà non possono rientrare nell'emergenza e che quindi se ne deve occupare l'amministrazione genovese. Voi che tipo di credito avete nei confronti dello Stato? Circa 80.000 euro in un anno e mezzo. Il Comune da parte sua non ha i soldi e quindi il problema resta nelle vostre mani. Esattamente, quindi noi abbiamo operatori che sono ancora in attesa di essere remunerati, ma in realtà siamo nel condizione di non sapere come fare. Noi comunque i minori li abbiamo mantenuti in struttura e li abbiamo fatti arrivare a fine percorso. Fino a quando non diventano maggiorenni? Esatto. Se in qualche modo non vi dovessero arrivare dei finanziamenti significativi da parte del Comune o da parte del governo centrale, si possa arrivare ad una situazione di blocco imposto, cioè che siate nelle condizioni di non poter più accogliere questi minori? Assolutamente sì, perché se non riusciamo a rientrare delle spese, noi non abbiamo una capacità economica che ci permette di poter continuare il nostro lavoro senza ottenere l'importo economico dovuto. Cioè ricevete donazioni? Sì, cose di questo genere che ci possono permettere comunque di sopperire alle difficoltà che ci sono state create a noi e al Comune di Genova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, come su pugni sto la perna di freghes. Anche se sono i loro interlocutori, il più delle volte le comunità lavorano insieme ai comuni, non contro di loro, perché vedono i loro sforzi e conoscono le loro difficoltà. Sono dei minori che hanno bisogno, dei minori per cui la porta si deve aprire per tutti, che siano bianchi più che siano neri. Alla voce disperata Rita Balestrieri si guarda intorno nella sua comunità cuore di Palma di Montechiaro, a due passi da Agrigento, e proprio non riesce a trovare parole di fiducia. Guarda i visi dei suoi bimbi, 10, provenienti soprattutto da Etiopia e Somalia, ma guarda anche i fogli dei loro conti, con gli stipendi non pagati da mesi. Succede qui, come in molte altre comunità che hanno aggiunto alle difficoltà storiche il dissesto provocato dall'assenza quasi totale dei finanziamenti dopo la chiusura dell'emergenza Nord Africa a fine 2012, come abbiamo sentito nella prima parte di A Ciascuno il Suo. Ma anche se per il governo italiano, per decreto, l'emergenza è finita, nella realtà non sono finiti gli sbarchi, né l'arrivo di minori, né bastano i 10 milioni in totale che l'esecutivo ha già stanziato, già finiti. E se le comunità sono andate avanti comunque fino adesso, garantendo salute, scuola e ogni assistenza a questi bambini, è perché gli operatori, in molti casi, come questo siciliano, hanno contribuito personalmente alle spese. E quando dei soldi dello Stato sono arrivati, ecco che subito Equitalia non ha esitato a riscuotere la sua parte. Ed è per tutto questo che è concreto, come ammette con tristezza Rita, il rischio chiusura. Da Lampedusa siamo stati portati ad Agrigento. Da Agrigento, dove c'è una tendostruttura, precisamente la posta in Betle, la questura ci ha chiamato perché c'erano questi minori, quindi come comunità per minori il nostro dovere è dare assistenza. Quando ci sono dei minori che arrivano con gli sbarchi, voi siete uno degli approdi principali, diciamo? Siamo i principali, Marina di Palma è vicinissima, quindi... Siete pieni, seguite ragazzi o bambini da tanto tempo in alcuni casi, ecco, però in questo momento non avete l'aiuto economico per far fronte alle spese che necessita la gestione di un minore, è così? Poi è da 10 anni che operiamo, 10 anni che praticamente abbiamo ricevuto solo acconti, noi siamo completamente al collasso, i fornitori di Palma di Montechiaro e gli operatori che lavorano da anni senza stipendio. In realtà è successo che nel 2013, quando è stata dichiarata chiusa, diciamo, l'emergenza Nord Africa, lo Stato centrale quindi ha delegato i comuni per il mantenimento delle comunità che gestiscono anche i minori che arrivano con gli sbarchi. E dal 2013 la situazione è già difficile, mi sembra di capire che è ulteriormente peggiorata per voi. Con l'emergenza Nord Africa qualcosina si era vista, ma a peggiorare la situazione le lettere che sono arrivate da parte del Ministero dicendo che è tutto a carico dei comuni. I comuni, per difendersi da parte loro, diciamo un attacco alle comunità, dicendo noi non ce la facciamo. Scrivendo a tutti gli enti preposti, dalla prefettura alla questura, dicendo di non portare più ragazzi in quanto il comune non può far fronte alle spese. Nel 2013 la situazione è peggiorata perché il governo non manda più i finanziamenti, quindi vanno a carico dei comuni e in sostanza i comuni non ce la fanno a gestire anche le spese delle comunità e dicono alle prefetture e alle questure e quindi di conseguenza anche a voi comunità di non prendere minori. Quindi vi hanno ordinato di non prendere minori. Sì. E che fine dovrebbero fare i bambini che arrivano con gli sbarchi? Questo lo dovremmo chiedere al Ministero degli Interni, a questo punto, al governo italiano, visto che siamo tutti bravi a fare accoglienza, ma la vera accoglienza l'abbiamo fatta noi, con i nostri soldi e con il nostro lavoro. Tenga conto che la tendastruttura di Porta Emblema è a collasso. Lo gestite come finanziariamente? Diciamo che ci siamo fatti aiutare dalle nostre famiglie. Da poco ci sono arrivati, dopo anni che non prendevamo soldi, una parte che doveva essere dedicata agli stipendi, a pagare fornitori. Ciappalà interviene immediatamente qui Italia per bloccarci le somme, perché noi dovevamo dei soldi allo Stato. Però intanto lo Stato ci ha creato dei danni. Voi di quanto siete creditori nei confronti dello Stato? Più di 1 milione di euro. E invece Equitalia vi ha bloccato queste somme, allora, quante erano? 98.000 euro e già Equitalia ci aveva bloccato di 40.000 euro. Se non dovesse la situazione cambiare a breve, avete mai pensato ad un certo punto di dire no, non possiamo, anche se non vorremmo, non possiamo accogliere minori? Si arriverà a questo punto, ma non solo noi, ma tutta la Sicilia e tutta l'Italia. Perché quando dalla banca ci vengono a fare pignoramenti a casa, io lo assicuro, non è una cosa bella. Voi avete avuto anche dei minori che sono scappati dalla guerra in Siria? No, noi abbiamo eritrei che sono scappati da altrettante guerre, somali. Quindi sono anche tutti richiedenti asilo? La maggior parte ormai sono tutti richiedenti asilo. Chi è richiedente asilo? Dovrebbe avere aiuto da chi? Dalla questura, dalla prefettura? Allora, a quanto pare la prefettura, per quanto riguarda il richiedente asilo, dovrebbe intervenire il Ministero dell'Interno nei pagamenti. Ancora noi aspettiamo. E tutti gli altri, i minori tutti uguali sono. Certo. Sono dei minori che hanno bisogno. Dei minori per cui la posta si deve aprire per tutti, che siano bianchi, che siano neri. È semplicemente un bambino che oggi si presenta e ha bisogno di aiuto, e mica le ne hanno bisogno tanto. E il quadro si ripete, dalla Sicilia alla Campania, dalla Puglia alla Liguria. Sono già una quindicina le cooperative per circa 50 comunità che accolgono in totale circa 500 minori che si sono messe insieme in un coordinamento per passare ora all'azione. Prima tentando il dialogo, poi le azioni giudiziarie verso i comuni, verso i ministeri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, quindi nei confronti dello stesso Stato in Europa, come anticipa l'avvocato Giovanni Lovidio, che insieme a Bianca Leone assistono le comunità. abbiamo comunicato alla prefettura di Benevento per il momento e ai comuni che praticamente abbiamo delle difficoltà impellenti per far fronte al recupero delle somme per l'accoglienza. Che tipo di iniziative pensate di prendere? Attivare sia azioni giudiziarie ordinarie sia penali nei confronti di chi sarebbe tenuto formalmente l'assistenza, quindi in questo caso anche il Ministro degli Interni e il Ministro del Lavoro, i quali pur nelle previsioni di continui sbarchi stanno facendo fronte con risorse assolutamente esigue. Stiamo parlando di 5 milioni di euro per i richiedenti asilo e 5 milioni di euro per i minori stranieri non accompagnati non richiedenti asilo. Quando risalgono? Il 28 dicembre. Con questi 10 milioni abbiamo coperto i primi due mesi dell'anno. Quanti ne sarebbero necessari? Dati continui sbarchi, 50 milioni. State pensando anche ad una strada europea? Stiamo valutando, sì, con uno studio di diritto internazionale, la possibilità di poter avviare una procedura di denuncia dello Stato italiano presso la Corte europea dei diritti dell'uomo. Accusa di abbandono di minore in Italia, ricorso in Europa per violazione delle convenzioni sui diritti dell'uomo e del bambino. Si arriverà davvero a questo? O lo Stato andrà in soccorso di queste cooperative e dei loro comuni e soprattutto di questi bimbi? È necessaria una riforma legislativa, ammette con Radio 24 Cecilia Guerra, vice ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che non va oltre però su un impegno economico, il vero punto dolente, ammette, ma promette ai nostri microfoni di portare la questione in ogni sede. L'ha sentita per noi Valentina Innocente. È una normativa che richiederebbe una rivisitazione. Sono convinta che ci sia l'esigenza di intervenire anche con una normativa di tipo nazionale di supporto. Molte comunità non riescono più a far fronte alle numerose esigenze. Anche i soldi dell'emergenza Nord Africa sono stati erogati con notevole ritardo, quindi quello che abbiamo cercato di fare intanto lavorare assieme per programmare un'accoglienza ordinata dei minori stranieri, ma il punto finanziario è per il momento molto dolente, nel senso che abbiamo avuto l'istituzione di un fondo per i minori stranieri non accompagnati che ci ha permesso di dare un cofinanziamento per gli ultimi mesi del 2012. Avevamo chiesto un analogo finanziamento per il 2013, ma in Parlamento un emendamento che non è stato approvato. Abbiamo stabilito in accordo con le regioni che una quota del Fondo Nazionale Politiche Sociali per il 2013 sia destinata a questo scopo, ma per una serie di vicissitudini legislative il fondo sarà disponibile solo fra un mese e noi abbiamo già concordato nel tavolo che abbiamo istituito le modalità di erogazione, quindi una boccata di ossigeno che arriverà. Ho posto con forza questo tema in tutte le sedi opportune e ho chiesto la convocazione anche di un vertice politico per valutare anche la numerosità dei flussi che stanno arrivando in Egitto e la Siria, potranno molto facilmente configurare una nuova emergenza dopo quella del Nord Africa e credo che questo sia un tema che debba assolutamente essere risolto in sede di legge di stabilità. Ecco, molte comunità ci raccontano che sono proprio diffidate dai comuni a ricevere altri bambini, ecco, si tratta di minori, quindi cosa dovrebbero fare? Il comune ha il dovere dell'accoglienza, non può per legge non può rifiutarsi. Il problema è che la procedura va seguita, cioè è l'autorità di pubblica sicurezza che trova sul territorio il minore non accompagnato e che lo indirizza ovviamente al comune che ne diventa il tutore. La legge dice che il comune è responsabile dei minori che sono trovati sul suo territorio. Siccome la situazione è tale per cui c'è una concentrazione di bimbi su alcuni territori, i comuni su cui c'è questa concentrazione ovviamente hanno difficoltà a fare fronte, quindi diventano anche tra virgolette particolarmente attenti anche a questi aspetti formali perché sanno che al numero eccessivo di minori stranieri sul proprio territorio può comportare difficoltà di bilancio di grande rilievo. I comuni hanno l'obbligo dell'accoglienza, ricorda giustamente il vice ministro Guerra, ma le diffide che abbiamo tra le mani spedite alle comunità raccontano ben altro e poi si fa fatica sinceramente a fare accoglienza senza soldi. La questione a noi sembra molto seria. E voi cosa ne pensate? Scrivetecelo se vi va sulla pagina Facebook di Storiacce o su Twitter. L'account è Raf Calandra. Infine, prima di chiudere, una comunicazione importante: dalla settimana prossima, col nuovo palinsesto di Radio 24, a ciascuno il suo, accontenta i dormiglioni e cambia coordinate. Andremo in onda infatti la domenica alle 20:30. Ricordate, non più il sabato, ma la domenica alle 20:30, quando cioè, insomma, tornate in città dopo il weekend o fuori. E poi la replica invece andrà in onda il sabato successivo alle 23:30. In ogni caso, e come sempre, tutte le puntate di A ciascuno il suo possono essere riascoltate in podcast sul sito radio24.it. Ciao a tutti, da Raffaella Calandra.